pronto? Fiato sospeso? Si comincia! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Qua indietro ancora un errore, Icardi! Icardi! La doppietta di Mauro Icardi! Doppietta di Mauro Icardi! Brozovic carica lui il destro! È un altro gol! Fantastico! Lo segna Brozovic! Brozovic! Dentro per Hamsik, Hamsik al limite, il tiro, Szczęsny, ancora Hamsik, salva ancora Szczęsny, ma non è finita, Mertens alimenta l'azione offensiva, pizza di Mertens, il tiro, ancora Szczęsny. Dybala, stop a seguire Dybala, Tatarusianu, e poi 2-1 Juve, Mandžukić, 2-1 Juve, sulla gol da respinta di Tatarusianu. 2-1 Juve. Quadrado, quindi Dybala, Dybala, fino in fondo Dybala, 3-1 Juve, ecco il punto esclamativo. Ragazzi, oggi non so più dove scrivere le cose sul mio personalissimo cartellino. Altro che Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato che ride in regia, Giovanni Vecchioni in redazione. Anche perché abbiamo tutti i temi del campionato sul tavolo ed è stata una giornata tutt'altro che banale. Però c'è anche la ruota della fortuna. Ma quale fortuna, ragazzi? Ma quale fortuna? Gira la ruota dei che? Maledetta ruota, altro che della fortuna, della sfiga nera. Pierluigi Pardo, ciao! Ciao! Roma, Real Madrid, Juventus, Bayern Monaco, Fiorentina, Tottenham, Galatasaray, Lazio, Villarreal, Napoli. Questo l'esito della ruota della sfigona. Sì, no, non bene. Soprattutto devo dire la Champions e l'Europa League. Comunque sono partite giocabili tutte e tre, direi. Sì, sono d'accordo. Secondo me il Napoli è più forte del Villarreal, Galatasaray, Lazio. La Fiorentina se la gioca con il Tottenham. Sì, le altre due mi sembrano equilibrate, insomma, quindi ma la Fiorentina anche l'anno scorso ha eliminato il Tottenham, insomma, non mi sembrano due partite drammatiche, certamente non si poteva essere più fortunati, certamente, però insomma non è una cosa da fasciarsi la testa. Per quanto riguarda la Champions è un verdetto abbastanza incontrovertibile, anche se poi hai visto c'è stato già il tweet di Allegri che ha detto non bisogna fare. Adesso ne parliamo. Secondo me poi ragione. Ne parliamo. No, ha ragione certamente, però tra le altre, intanto pensa alle percentuali, le chiedo anche agli ascoltatori, 800240024, numero verde, messaggi 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Altri accoppiamenti, c'è di nuovo Ibrahimovic contro Mourinho, Paris Saint-Germain Chelsea, Arsenal, Barcellona, anche questo è un film che abbiamo già visto. PSV Atletico, Benfica Zenit, Ghent, Wolfsburg sono accoppiamenti grosso modo da Europa League, così come Dinamo Kiev, Manchester City. L'urna si è divertita nel mettere di fronte le grandi favorite, o comunque nel farci del male, perché Roma Real Madrid e Juventus Bayern sono due pessimi sorteggi, peraltro meritati, almeno dal punto di vista della Juventus, che potrebbe piangere lacrime amarissime sulla notte di Siviglia di nuovo. Percentuali, Pier? 20% Roma, 25% Juve. Peggio il Bayern Monaco del Real Madrid, io credo. Per me il Bayern è più forte del Real, però in questo momento la Juve è più forte della Roma, quantomeno dal punto di vista della mentalità, dell'abitudine a certe partite, insomma, al di là del fatto che ieri c'è stato il sorpasso in campionato e non sono così sicuro sul fatto che la Juve poi arriverà davanti alla Roma. Penso di sì, ma non ne sono sicuro al 100%, no? Secondo me non si può dire che una squadra sia nettamente più forte dell'altra. Però dal punto di vista di abitudine, mentalità, a giocare queste partite, la Juve è sicuramente più avanti nel suo processo di maturazione e di esperienza rispetto alla Roma. Sì. Detto questo, a febbraio le cose possono cambiare mille possono volte, cambiare, la Champions certo. Ci ha rilevato, Regalato. Ci ha regalato clamorose sorprese. Ci ha anche rivelato, rilevato, velato. Vabbè, una serie di verbi a caso. E però, insomma, sicuramente non è andata bene. E devo dire che fa doppiamente male nel caso della Juve, perché la Roma in qualche modo. Non è che potesse sperare più di tanto anche dal punto di vista dei meriti. E poi arrivo a dirti che, secondo me, il Real Madrid certamente non è la squadra. Secondo me il Real Madrid era la. Tutte e due hanno pescato la seconda peggiore che potessero pescare, nel senso che la Roma non aveva il Barcellona, e quindi, diciamo, secondo me la più forte di tutti non la poteva pescare. La più forte era il Bayern e ha preso il Real. E la Juve, che invece poteva prendere il Barcellona, la più forte era il Barcellona, e poi subito dopo c'era il Bayern. Quindi tutte e due sono state abbastanza sfigate. Però è un peccato, perché ci sono poi sfide abbastanza clamorose. Insomma, il Wolfsburg ha beccato il Ghent. Leggo le altre, che Benfica Zenit non mi sembra esattamente la partita dei sogni, così come esatto. Dinamo Kiev Manchester City, ma tu immaginati vincere quel maledetto girone, ti becchi la Dinamo Kiev e vivi una vita migliore almeno da qui infatti, 16, 17 febbraio, 23, 24 le date delle gare di ritorno. Vi voglio far sentire cosa ha detto Nedved a proposito di questo sorteggio. Poi ovviamente abbiamo anche i temi del campionato, con una giornata importantissima che ha promosso la Juventus a pieni voti e che secondo me ha bocciato il Napoli. L'Inter l'abbiamo vista sabato sera, non avevo grossi dubbi sul fatto che portasse a casa i tre punti, avevo qualche dubbio in più sul passivo dell'Udinese, ma questi sono grosso modo dettagli. Nedved: non è una sfida impossibile, perché nel calcio non si sa mai, perciò per noi è importante affrontare queste partite con umiltà, con la voglia e consapevolezza di che affrontiamo una squadra che è veramente difficile da affrontare, ma nessuno è imbattibile, perciò noi dobbiamo pensarci così. Vi confesso che studio attentamente le formazioni, i giocatori, eccetera, eccetera, meno gli organigrammi societari. Zanzi è l'amministratore delegato della Roma, che ha commentato così il sorteggio dei giallorossi con il Real. Primo, a questo livello e questo punto della competenza, qualsiasi rivale sarà difficile, anche qualcuno con più grande nome che altri, tutti sono grandi e molto, molto difficili per confrontare. Relativo al Real, ovviamente sarà una buona sfida, ma come sempre noi diciamo che abbiamo rispetto per tutti, ma non abbiamo paura di nessuno. Quindi manteniamo la stessa fiducia tanto nella Serie A come nella Lega Campione. Parole di circostanza dell'uomo di pallotta. Traffico, torniamo subito. 800 24 00 24 è il numero verde. Tutti convocati. Tutti convocati. Direi questi sono i giocatori della Juventus che cantano la canzone di Natale meglio che X Factor. No, diciamo che giocano meglio di come cantano. Stasera ho Barzagli. Non benissimo. Fagliela sentire. La faccio sentire a Barzaglione. Lo punisco a dovere. Lo punisce a dovere. Invece, in realtà, è molto carino, molto divertente. No, certo, carino. Tutto ciò che contribuisce con l'ironia, l'autoironia, la leggerezza è. Beh, ma sai, benvenuto, certo c'è della gente che stona. Onestamente, magari siamo presuntuosi, però se ci mettiamo io, te e Maurizio Crosetti da Repubblica facciamo Eccolo. Di meglio. Sì, riusciremmo a fare una cosa appena un po' meno raccapricciante del sorteggio di Champions e molto meno raccapricciante del pur simpatico coro juventino. Maurizio, ti faccio sentire una cosa, anche a Pardo ovviamente, a tutti quanti, 800 24 00 24, questa. D'accordo, ci proverò. No, provare no, fare. non fare. Non c'è provare. Star Wars. Chi ha scritto ste robe? Posso dirti chi ha ritwittato? Bravo, certo. Ha appena ritwittato Allegri questo motto che diventa... Beh, non è una brutta, non è una brutta idea per andare in Baviera e per ricevere questi fenomeni qua, qua a Torino. Non è una brutta idea, però certo. Posso dire che Allegri non posso dire che è un fenomeno, ma sta facendo cose da fenomeno. Sì, sono d'accordo. Posso continuare questa mia campagna. Bravo. Io sono da con quando te. Lui ha lasciato al tuo fianco con lo spadone. Come si chiama la spada di Guerre Stellari? La spada laser. Non lo so, non sono un cultore. Si chiama la spada di Guerre Stellari. Certo. Vabbè. Si chiama spada, si chiama signora spada. Signor spada e io sono accanto al mio compagno di banco Pierluigi Pardo in questa crociata stellare nei confronti di Allegri, che secondo me fin qui ha fatto, da quando è alla Juventus, tutto il possibile e anche qualcosa di più. Da quando ha abbandonato, diciamo, la strada della logica, della normalità, non che prima non decidesse, ha sempre chiaramente deciso per conto suo, ma insomma da quando si è messo a sfidare, tra virgolette, l'ordine costituito, la piazza, anche noi giornalisti, io penso che abbia fatto le cose migliori e ogni partita continua a confermare la bontà delle sue scelte. Poi sì, ovviamente i conti si fanno alla fine e sicuramente se Allegri deve essere lodato per i punti recuperati adesso, deve essere biasimato per i punti persi all'inizio, insomma è ovvio che ci vuole... Sì. Però mi sembra veramente che nelle ultime partite abbia ritrovato... A meno male, se no ci eravamo già annoiati. E poi fa delle cose, fa delle prodezze, perché gli ingressi per esempio di Alexandro a partita in corso, secondo me sono delle piccole perle, sono stati spesso decisivi. L'aver puntato forte su Mandžukić in questo momento, secondo me di partita in partita si conferma come la cosa migliore, al di là dei gol che non sono chiaramente un dettaglio, quindi... Bene, come diceva Stramaccioni, bene. Sì, bene sicuramente. La Juventus, Maurizio, vincitrice della tappa del campionato, mi viene da dire, meno male che ha concesso un piccolo vantaggio agli altri, se no eravamo già qui a parlare magari di campionato chiuso. Sì, devo dire, non per fammela dire, perché questo è troppo facile. L'unico tiki-taka che ormai apprezzo, a parte il Barcellona, è quello di Pierluigi, perché quello della Fiorentina l'ho trovato un po' stucchevole ieri sera. Alla fine, a forza di preliminari, non si porta mai all'altare la bella donna che tu desideri. Però posso dirti, la Fiorentina ha fatto la Fiorentina, e questo è un titolo di merito, non si è snaturato. Sì, però lo sta facendo, ieri sera lo ha fatto troppo, nel senso che va benissimo il possesso palla, va benissimo la tecnica sopraffina, va benissimo togliere il pallino agli altri, però poi devi verticalizzare, devi innescare le punte, altrimenti gli altri che non sono fessi ti lasciano giocare e poi ti castigano, anche se poteva anche finire in pareggio, non è certo, che la Fiorentina avrebbe rubato niente, però alla fine la Juve sta per essere presa per sfinimento, cioè la Fiorentina ha giocato col pallone, secondo me la Juventus ha giocato a pallone. Sì. Sì, sono d'accordo. Non è la stessa cosa. Sono d'accordo. La Juventus ha giocato a pallone e non era facile dopo Siviglia, attenzione. Ho la sensazione che la Fiorentina sia un po' stanca rispetto ai momenti migliori, rispetto ai picchi di rendimento di un mesetto fa, e questa cosa secondo me la vedi proprio nella difficoltà nel cambiare passo negli ultimi 30 metri, anche se poi come sempre il calcio, soprattutto in partite così incerte, Juve-Fiorentina è stata una partita equilibrata, incerta, al di là dei due gol alla fine della Juve è stata una partita equilibrata. C'è un'immagine nel secondo tempo di una verticalizzazione verso Kalinic con Bonucci che fa un intervento pazzesco e salva probabilmente la porta della Juve da un Kalinic solo davanti al portiere, poi magari avrebbe sbagliato, però quindi questo tipo di cosa però in altre circostanze l'abbiamo visto fare 7-8 volte a partita, ieri l'abbiamo visto pochissimo, un po' per la forza dell'avversario, un po' secondo me anche perché la Fiorentina ha perso un po' di quella brillantezza. Quando perdi brillantezza rimane il tiki-taka, cioè rimane comunque una capacità di palleggio che la Fiorentina ha, ma che difficilmente porta a verticalizzare con la pericolosità che ci vorrebbe. D'altra parte loro sono abituati a giocare così e non si sono snaturati ieri sera. Ragazzi, permettetemi invece di fare pubblica ammenda sulla Roma, perché ieri sera a Napoli ha giocato una partita che non puoi giocare se non stai con il progetto, con il tuo allenatore, sì, eccetera. Adesso dicono la Roma ha parcheggiato il pullman davanti alla porta, e te credo, e ha fatto benissimo. E ha fatto benissimo, perché giocare quella partita ieri sera, lascia stare che il Napoli è stanco e questo è realistico, che magari è in leggera flessione, però non giochi quel tipo di partita se non ci credi più, Maurizio. Sì, faccio ammenda anch'io. Io pensavo che potesse finire tanti a pochi. Anch'io. Come si dice? E l'ho anche dichiarato. Io l'ho pure scritto. Esatto, tu l'hai pure scritto, quindi ecco, ci siamo esposti al pubblico esatto. Ludibrio senza sì, problemi. Perché comunque quell'attacco, e parlo del Napoli, e quello squilibrio che ogni tanto affiora, e parlo della Roma, soprattutto nelle tane più calde, più difficili, sembravano fatti apposta per quagliare in una partita proprio a tanti a pochi. Invece la Roma ha saputo organizzarsi molto bene e ha anche colpito, perché adesso al di là delle mille discussioni sulle parabole, la fisica quantistica, la meccanica gravitazionale, è riuscito o non è riuscito il pallone, però comunque quel gol la Roma l'aveva messo dentro e anche se il Napoli ha avuto molte più occasioni, molta più pressione, la Roma è uscita come una squadra che è in controllo di se stessa, non una banda allo sbaglio. Bravo, esatto. Qualche piccolo gesto di egoismo è affiorato nel Napoli, Pier. Sì, sicuramente sì, però sono d'accordo, anch'io, io già mi sono largamente sbilanciato sul Napoli, in questo momento le previsioni non collimano con la realtà per quanto riguarda lo scudetto. Per quanto riguarda ieri, anch'io mi aspettavo sicuramente una partita più complessa per la Roma, e sono d'accordo con te che anche se è stata essenzialmente, direi quasi esclusivamente una partita difensiva, ma esattamente quello che non ci aspettavamo, Pierluigi. Però è una partita difensiva che racconta appunto di una squadra coesa, come dice il nostro Andro Mercu quando imita Berlusconi, di una squadra unita che, come dice Garcia, ha messo in campo molta solidarietà. Esattamente quello che non ci aspettavamo dalla Roma. Molta capacità di soffrire, di lottare, l'aiuto reciproco, quindi da questo punto di vista molto bene. È chiaro che, sai, è abbastanza strano perché la Roma fino a due partite fa era la squadra del disequilibrio. Bravo. Era la squadra che non riusciva mai a fare il clean sheet, cioè a non subire gol, e però segnava tanto. Adesso nelle ultime due partite ha fatto 2-0-0, quindi questo è abbastanza incredibile. Credo che adesso con la qualificazione comunque conquistata, quindi la possibilità di poter fare mercato e questa partita di Napoli che è andata meno peggio di quello che poteva essere, la Roma adesso abbia la possibilità pian piano di ripartire. La destinazione, l'obiettivo, il traguardo è difficile perché mi sembra che ci siano squadre comunque più attrezzate. Un'ultima cosa per Maurizio Crosetti: l'Inter scappa secondo te? No, non scappa, ma certamente rimane, non scappa, forse non scappa ancora, ma rimane lì. È una squadra che assomiglia per certi aspetti alla Juve nella solidità, nella difficoltà che mette gli altri nel giocarle contro. Contro l'Inter e contro la Juve spesso non si sa da che parte cominciare, soprattutto contro l'Inter, una squadra certamente di contenuti, fine dello stucchevole dibattito sulla bruttezza, sulla bellezza del suo gioco. Il gioco di chi vince è sempre una meraviglia, anche esteticamente, perché ce lo possiamo piacere. E poi comunque non mi sembra che ci siano, a parte bellissimi momenti di gioco del Napoli, talvolta della Fiorentina quando non esagera, ecco, non mi pare che proprio siamo nel paese delle meraviglie, e l'Inter ci sta tutta assolutamente. Sì, ma qui invece ribadisco, come ho pubblicamente dichiarato, non mi aspettavo grandi difficoltà dall'Inter in questo tipo di partite, cioè a Udine non mi aspetto grandi difficoltà dall'Inter nel portare a casa i tre punti comunque vada con squadre più deboli. Sì, è così, e poi comunque tenete conto che il calendario fino alla metà di febbraio, quando proporrà Fiorentina-Inter, a parte il derby che è una partita del tutto anomala e fuori dal controllo, anche se ci sono 11 punti adesso di distacco tra l'Inter e il Milan, dico, a parte il derby, tutti gli altri sono scontri indiretti nei quali l'Inter può non solo vincere il titolo d'inverno ma irrobustirsi, ed è quello che io credo farà alla fine. E ci sono due squadre belle, molto, il Napoli e la Fiorentina, e ci sono squadre robuste, pratiche e forti, molto, e sono l'Inter e la Juve. Direi che più o meno è questo il quadro adesso. Grazie Maurizio, alla prossima. Voi, ciao. Ciao Maurizio Rosetti. Stasera. Stasera c'è? Sì. Parterre de Rouen? Stasera abbiamo Barzagli, abbiamo Giovinco, ci colleghiamo con la festa del Napoli, abbiamo un grande giornalista italiano non calcistico, non dico nulla per scaramanzia, abbiamo Mughini, abbiamo Peter Gomez del Fatto Quotidiano, tifoso dell'Inter, l'Abate, Liguori, Melissa Satta, la Barriales, di tutto di più. Ma canta De Laurentiis? Vari collegamenti. Sei già d'accordo? Vediamo. Aspettiamo solo quello, tu lo sai. 800 24 00 24, aspettiamo ovviamente anche gli ascoltatori. Simone e Alberto sono già in linea, sentiamo la borsa e poi cominciamo a parlare con loro. Bene, molto bene, il Trapp apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Vabbè, signore e signori, puntatissima, mi ha raggiunto il mio amico Alessandro Milan, il signore del mattino di Radio 24. Ciao Carletto! Che è contento, come una bestia per l'1-1 di ieri con il Verona. Stiamo facendo un campionato in linea con le nostre aspettative da sesto o settimo posto. Senti Milan, ma tu adesso cerco di recuperare il sondaggio, perché poi è bello fare i sondaggi con Twitter, però poi non ti dà il risultato, quindi recupero il sondaggio fatto ieri. Tu fai il sondaggio e poi il risultato che conta nel sondaggio. Mi sto anche strozzando. Allora, 1896 voti, ci sono ancora due ore, fatto ieri, sondaggio Milan, Mihajlovic va tenuto, il 66% dei miei follower, quindi non è che sono Mannheimer, per carità, non è, dicono che va tenuto, il 34% che va cacciato. Tu da che parte stai? Io dico che va tenuto, cioè, no, o meglio, non potendo cacciare adesso Montolivo, Abate, De Sciglio, De Jong, Poli, Ondà, Suso, Cerci, allora vuoi giornale per, no, esatto, per la rosa completa? Mi sono fermato, ma guardate che potevo continuare, però non potendo cacciare tutti questi, uno dovrebbe cacciare Mihajlovic, questa è la verità. Cosa cambia soprattutto Cosa cambia? Non cambierebbe assolutamente nulla. Simone, provincia di Macerata, poi Alberto, provincia di Reggio Emilia. Buongiorno Simone. Buongiorno a voi. Dica. Carlo, innanzitutto volevo fare i complimenti perché secondo me Genta Pardo è una coppia d'attacco ai livelli di Preveto e Romario e Cole e York. Romario e? Cole York. Ho variato gli anni 90, io sono del 76, quindi è normale che in quegli anni ero ancora proprio più... Potevamo fare meglio, di grande Dwight York, grande Dwight York. Sì, però potevamo fare meglio. Ad esempio, Neymar Suarez era meglio. Io mi sento un po' Jimmy Floyd Hasselbank. Anche un Atley Virdis. Atley Virdis per i nostalgici. Posso fare Atley? Va benissimo. Non so se ci guadagni, credo proprio di no, però vabbè. Allora, dimmela. Io sono juventino e sarò un salmone che vado contro corrente. Secondo me la Juve è più, questa Juve è più forte di quanto ci crede oggi, e sul piano atletico secondo me c'ha più corsa anche di quella dello scorso anno. Io sono fiducioso e volevo farvi soltanto due domande. La prima è se giocando fine febbraio, col fatto che in Bundesliga c'è la sosta, potrebbe essere chiaramente un punto a favore della Juve, e avendoci a disposizione un colpo di mercato a gennaio, che cosa fareste voi per portare a Torino magari un giocatore utile alla causa, ecco. Prenderei un esorcista per il Bayern Monaco. Poi è chiaro che è quello che tutti speriamo, no? Ho già letto diversi messaggi che sottolineano questa cosa, come la sosta possa in qualche modo arrugginire i meccanismi del Bayern, come peraltro è già successo con le squadre tedesche. Sentiamo direttamente anche Alberto, provincia di Reggio Emilia, e poi diamo risposta cumulativa. Mi segno le osservazioni intanto. Buongiorno, Alberto, buongiorno. Io credo che... Pronto, mi sente? Sì, la sento bene. No, credo che la Juve sia andata a Siviglia con una sorta di, come dire, di atteggiamento di superficialità, nel senso che secondo me pensava di avere già comunque il pareggio in tasca, e questo l'ha pagata in modo sono d'accordo, l'ho detto nei giorni scorsi, doveva giocare con un atteggiamento diverso una partita che era fondamentale, forse anche più per la Juve che non per il Siviglia in valore assoluto, mentre il Siviglia ha giocato con la rabbia di chi ha qualcosa da conquistare, ma era anche la Juve ad aver qualcosa da conquistare. Pardo Milan, ditemela. Milan, prego. Milan. Allora io ho visto che Mario Adinolfi, noto tifoso juventino, ha già scritto su Twitter: prego, screenshottate, cioè fotografate la Juve elimina il Bayern Monaco. Mario Adinolfi è sempre così. È chiaro, secondo me la Juve se la gioca, perché poi la Juve è nettamente qui lo sottoscrivo, la squadra italiana. Ma nettamente i miei meglio amici dell'Inter. Ma molto meglio dell'Inter. Io in tempi non sospetti ho detto che rivincerà anche il campionato quest'anno. Ah sì. Tommaso Labate, buongiorno. Sì. Ma che stai facendo? Eccola, mamma mia. Tommaso Labate, abbiamo la capolista. La capolista. La Juventus, dice Milan, è nettamente meglio dell'Inter. Guarda, io sono d'accordo. Sì, sono d'accordo. Tra l'altro, Pier può testimoniare che a un tiki-taka 6 o 7 tiki-taka fa, quando la Juve era annaffata insieme all'Albino Leffe e alla Prosesto nelle ultime posizioni lascia della Serie A. Stare la Prosesto, lascia stare la Prosesto, sennò il Milan devo legarlo, A domanda quale fosse la mia favorita per lo scudetto, ho sostenuto Juventus. Ma sei uno scaramante. E vedo che comunque la storia mi sta dando ragione. La squadra va bene perché è un buon allenatore e soprattutto la squadra più forte del campionato. Cioè Dybala è un talento, fermatelo. Per quanto riguarda l'Inter, noi siamo, diciamo, molto tranquillamente, ci mancano 4 punti per raggiungere la salvezza. Siamo tranquilli. Sì. Va bene, ragazzi. Ce ne sono 6 o 7 meglio dell'Inter, come dice Mancini, compreso il Milan. Ha detto anche il Milan? No, perché se ha detto anche il Milan, veramente. L'Inter è cambiata, ragazzi. L'Inter, Pierluigi, è cambiata. Possiamo continuare. Io, altro giorno, vabbè, in tutto questo mi sto strozzando. Segnalo questa cosa, però insomma spero di arrivare fino alla fine della puntata, sì. Ecco, sì, non è bello magari per gli ascolti, però insomma 6 o 7 tiki-taka fa preferirei sopravvivere. Sì, mi piace questa cosa, fra l'altro, che la fate misura il tempo in puntate di tiki-taka, mi emoziona abbastanza, mi fa diventare un po' megalomane. No, l'Inter è cambiata completamente, cioè l'Inter si può continuare a dire che riceve dei regali del destino, ed è vero, perché io francamente una squadra che si fa 3 gol da sola come ha fatto l'Udinese l'altro giorno non l'avevo mai vista. Però insomma questa è una squadra che ha preso adesso una sicurezza e un'andatura molto diversa rispetto a prima. Fino a un mese e mezzo fa l'Inter vinceva le partite 1-0 con Handanovic migliore in campo, con mille patemi, con una produzione di gioco proprio scarsa. Non è mica colpa dell'Inter, se Dominici fa quell'errore, se Udinese fa quegli errori. Inter di Inter-Roma, secondo me, non era questa. Questa è una squadra che sta trovando, innanzitutto sta trovando dei protagonisti che prima non c'erano. Icardi che sta esplodendo, Ljajic che sta diventando un giocatore importante, e poi trova sempre la soluzione. Dietro è molto solida, e quindi insomma come si fa a sottovalutare la capolista e a dire che è soltanto fortuna? Mi sembra assurdo. Non la sottovalutiamo, arriverà seconda dietro la Juve, non è che la sottovalutiamo. Arriva seconda dietro la Juve secondo te? Sì, questo è il mio pronostico. No, ma in realtà tutti gli esorcismi sono validi purché non vinca l'Inter, insomma, cercate di capirmi. Tommaso, che devo fare? No, io dico quello che penso. Non è vero, questo è una balla colossale. Sì, dice questo, però parlando seriamente, io sono molto premessa. Io devo fare ammenda. 8 o 9 tiki-taka fa che ero molto perplesso sul gioco di Mancini. In realtà, oltre al fatto che il gioco è migliorato, che cerca le soluzioni, questo gruppo sembra veramente una banda di amici. Cioè l'esultanza di Icardi contro l'Udinese, come dire, 2 anni fa l'avremmo vista rabbiosa perché c'erano delle voci, la panchina non è più lo stesso. Invece è risultato come un ragazzo felice di aver segnato. E anche, come dire, il fatto che comunque giochino tutti, una squadra che vogliamo che ha 20 persone titolari, cioè non c'ha un 11 titolare tolti Murillo, Miranda e Handanovic. E il fatto che tutti si sentano coinvolti, che anche Montoya comunque giocando dai primi minuti alla 16ª giornata di campionato si è riuscito a dire la sua, secondo me Mancini è riuscito a creare un grandissimo gruppo. Infatti secondo me secondo me Tommaso 20 tiki taka fa avevi pronosticato lo scudetto dell'Inter, ma adesso non te lo ricordi. Io ho fatto 2 rapidi calcoli, sì. 8 o 9 tiki-taka fa, quindi non so, poniamo 10 settimane, facciamo finta il 27 di settembre, Inter 1 Fiorentina 4, quindi siamo nei tempi proprio precisi, cioè non è che Tommaso Labate la stia sparando. No, no, no, assolutamente. Fra l'altro devo dire una cosa, adesso svegliamo questa piccola cosa. Io sono una delle persone più multitasking del mondo, nel senso che faccio quattro cose contemporaneamente, ma devo dire che l'abate forse mi supera, perché stava contemporaneamente parlando, scrivendo una cosa su una chat di amici che abbiamo e retweetando un mio tweet. Quindi stiamo parlando veramente di un uomo bionico, o allo staff, potrebbe anche essere che abbia lo staff, con gli spin doctor, oppure veramente è un genio da questo punto di vista. No, io non so, mi son perso sul calcolo di Tiki-Taka. Penso che l'Inter... Ho fatto io due conti così. Penso che l'Inter e la Juve siano le squadre più calde del momento, e penso che in qualche modo questa sia, anche se vuoi, un cambio di passo rispetto a una prima parte della stagione, nel senso che secondo me quello che le ultime giornate di campionato ci stanno dicendo, con la crescita di Inter e Juve, che stanno emergendo squadre un pochino più quadrate, un po' più solide e più abituate, soprattutto nel caso della Juve, rispetto a un calcio un po' più champagnone, che è quello, se mi passare questa espressione, che è stato quello del Napoli sicuramente, quello della Fiorentina e a sprazzi anche quello della Roma. Quindi magari fra un mese ricambierà tutto, insomma, mi sembra un campionato molto bello e molto interessante. Certamente in questo momento il vento va su Inter e Juve, ma ripeto, magari fra un mese sarà diverso. Sì, champagnone fino a un certo punto per quanto riguarda il Napoli, perché basta guardare la casella comunque dei gol subiti. Sì, no, sono pochissimi, certo. Quindi ha tolto le bollicine a tutti gli avversari. Alessandro Milan e Tommaso Labate, Roma-Real Madrid e Juventus-Bayern. Quante possibilità ci sono? Ma secondo me la Juventus se la gioca assolutamente. Col Bayern Monaco? Sì, se la gioca secondo col Bayern Monaco. Secondo me è abbastanza ingiocabile. Mentre... Con Bayern e Barcellona è abbastanza ingiocabile. No, secondo me no. La Juve se la gioca, qualsiasi altra squadra italiana non se la giocherebbe. La Roma, obiettivamente, se dobbiamo vedere la Roma da adesso, con Real Madrid non se la gioca per niente. Certo, fosse stato il contrario, la Roma sarebbe uscita al 100% col Bayern. Con Real Madrid anche secondo me è molto dura, però la Juve un 40% io glielo do. Posso dire una cosa a Tommaso Labate? Quello dai. Sorteggio sfigatissimo per l'Inter questo. Mazza, abbiamo beccato la Lazio la settimana prossima. No, questo di Champions League è un sorteggio sfigatissimo per l'Inter. Ma non è perché Roma e Juventus potrebbero uscire alla fine di febbraio. No, non misuro mai, come dire, l'andamento del campionato rispetto agli impegni di Coppa, anche perché questo vale secondo me nella prima parte della stagione, dove c'è la stanchezza, si risente la preparazione, ma nella seconda parte della stagione secondo me fa più effetto negativo una mazzata psicologica presa in Europa con l'uscita, che non la fatica di giocare su due terreni contemporaneamente. La storia recente ce lo dimostra. Abbiamo prodotto, se non sbaglio, tre triplete tra Barcellona e Inter negli ultimi sei anni. Segno che giocare sulle ali dell'entusiasmo molto spesso conta molto più della fatica accumulata nelle gambe. Per cui io penso che una squadra, a prescindere che siano Real Madrid, Juve, eccetera, eccetera, che esce agli ottavi di Coppa Campioni, non è una squadra molto più concentrata sul campionato, ma è una squadra che ha la mazzata psicologica di aver abbandonato l'Europa in anticipo. Comunque state parlando di scudetto e Champions League, vi volete poi buttare in depressione alle tre del pomeriggio, no? Fate voi, cioè, scudetto e Champions League. Di a Milan come scrive Enzo, che il Milan rischia di andare in B per la terza volta, ti prego, diglielo. Ma dai, su, ma non dagli questo colpo di grazia. Non fatevi ridere. No, secondo me no. Io vedo invece, ragazzi, cioè, secondo me no, Tommaso dice anche no, secondo me no, no. Vedi i ragazzi coesi. Che arroganza, no, questi interisti. La cosa che mi preoccupa di più, devo essere sincero, è la Roma, perché la Roma ha un effetto pubblico, chiamiamolo così, molto più incisivo rispetto ad altre piazze, per cui un'eliminazione che direi improbabile, visto che gioca da favorita contro il Real Madrid agli ottavi di finale, creerebbe degli effetti a catena, diciamo, più devastanti che per la Juve. Non ci va nessuno, Tommy, non ci va nessuno a vedere la Roma, lo sappiamo, sono in contestazione perenne, che anche se passano, anzi io mi aspetto un Roma-Real Madrid, se i venti sono questi, con i biglietti che vengono elargiti come quelli del circo, oppure compri un hamburger, ti do due biglietti per vedere di riempire lo stadio. Tommy, ti ringrazio, a presto. E per le strade e nei bar. E nei bar, certo. Misura, grazie, Tommaso, buono scudetto. buona retrocessione. Ciao a tutti. Ciao Tommaso Labate. Ci fermiamo un attimo, traffico, poi torniamo e facciamo arrabbiare Milan, naturalmente. Torniamo subito. Tutti convocati. convocati. È stato sicuramente danneggiato, è stato condizionato dall'arbitraggio. Se lo dico io che non ho mai parlato, significa che siamo al limite. Io sono bravo ma non sono scemo, perciò non voglio essere preso per sedere da nessuno. Perciò si va avanti così. Non è prima volta, perché noi qua ci giochiamo la vita, poi giochi, poi pareggi e poi dopo succede quello che deve succedere, ma è normale, è giusto. Però non si può fare così, non si può fare. Io posso anche non parlare di arbitri, ma non sono scemo, non sono scemo, perché queste robe mi fanno arrabbiare, perché non è possibile che due gol regolari non ti lo danno, rigore netto non ti lo danno, settimana scorsa rigore netto avete detto tutti non me lo danno, e va bene non parlare degli arbitri, però non va bene anche prese per sedere, perché così non va bene, Cosa può essere discutibile? No, rigori dati o non dati, secondo me invece era di più quello del Carpi. Cosa c'è da discutere? Non ho capito. Secondo me è più netto quello sul a favore del Carpi. Tu hai giocato calcio, ma sì. Ti vedo che porti occhiali, adesso non ce l'hai, non ce l'hai neanche altra volta, perché non vedi bene, dai. Non scherziamo. Ce li hai gli occhiali. Non scherziamo, volevo mettiteli allora. Vabbè, dedicato a te, Alessandro Milan. Grazie, sei sempre molto attento. Non ho capito se mi invitate quando il Milan va male o se è il Milan che va male da 3 anni, per cui qualsiasi puntata va da bene. Non ho ancora capito. Credo la seconda. Entrambe le cose. Sì, più la seconda, credo. Vabbè, abbastanza. No, adesso io difendo Milan. Colpa degli arbitri. No, però no, non puoi dopo Milan Verona, partita che dovresti vincere 2-0, 3-1, eccetera, recriminare sull'arbitro. Il mio sospetto è che Mihajlovic l'abbia fatto un po' per distogliere l'attenzione dal fatto che altrimenti nel giro di 2 secondi avrebbero detto: "Ah, Mihajlovic la panchina tra questo è sacrosanto. Questa è realtà. È stato abile, è stato abile, cioè quando vai a protestare dopo che hai fatto 0-0 a Carpi e pareggi con le, insomma, due pareggi contro le ultime due in classifica. E protesti contro gli arbitri, va bene così, andiamo avanti. Come facciamo a Pardo a tirargli sul morale a sto ragazzo? Non lo so, mi sembra dura, mi sembra difficile. Io forse possiamo sempre ricordargli che arriva Boateng. Sì, ma c'è sempre arriva la Satta, grande ritorno di Melissa Satta a Milano. Esatto. E di Boateng, sì, volevo dire. Esatto. E poi non lo so che altro ci può essere. Beh, peggio di così non può andare. Potrebbe sempre piovere. No, posso dire solo una cosa su come sono i tifosi del Milan. Me l'ha insegnato un tassista milanista che mi portava e mi ha detto: "Guarda, io mi arrabbio, mi deprimo, ma la partita successiva sono ancora lì a vedere, a tifare per il Milan". Ecco, noi del Milan siamo così, abbiamo un cuore inarrivabile, ma ce lo stanno inaridendo, ce lo stanno facendo diventare di pietra, ci stanno dissanguando il cuore rossonero, non rimarrà più nulla dopo un altro anno così, non lo so. Marco da Milano, buongiorno. Pronto? Dica. Sì, buongiorno. Dica. Sì, io ho 3 cose velocissime. Sì? Allora, una, per i tifosi del Milan, vorrei lanciare un appello su un tifoso del Milan. Lanciamo un appello. Sì, di incitare comunque la squadra. Va bene. Però San Siro e sì. Poi una cosa. Vedi che è depresso, Carlo. Lo dice anche lui, ma è depresso mentre lo dice. No, che ho fatto una cosa. Ah, ecco, ho fatto una cosa. Sì, vabbè, sono un po' depresso. Per togliersi la depressione, perché le endorfine aiutano. Sì. Poi una cosa velocissima sul regolamento. Quando c'è il rinvio da fondo campo e si prende la palla in area, viene ripetuto. Secondo me ci vorrebbe una punizione, perché le squadre magari vanno in pressing e diciamo il difensore vede che arriva l'avversario, entra in area apposta, la tocca e si ripete. Vabbè, questo lo chiederà Pardo stasera a Cesari, poi? Certo. E poi mi sono dimenticato, va bene così. La prima la terza se l'ha dimenticata. Dunque, appello che i tifosi sostengano la squadra. Ma io capisco tutto, ma questo ci sta, cioè è giusto che i tifosi debbano stare vicino. Ma come fai a stare vicino a questa squadra? Cioè, ma io veramente, guarda che ogni volta vedrò anche Frosinone Milan, dice: "Dai ragazzi, forza", in TV ovviamente, "dai forza che ce la facciamo", però ogni volta, ragazzi, è una depressione sempre più incredibile. Io se riesco a far diventare mio figlio, che ha 7 anni, milanista. Gli scrivo sempre: noi siamo la squadra più forte del mondo. Se ce la faccio a farlo crescere milanista, ho fatto il miracolo del millennio. Il miracolo beh, del ma millennio. Conta sull'età dell'innocenza, dai. Ho capito, non, però mi dice: ma scusa, papà, però abbiamo pareggiato col Verona. Ma non importa, noi abbiamo Bacca. Gli dico così: noi abbiamo Luis Adriano. E lui urla, ma credo che durerà poco ancora. Pablo, cosa posso fare? Dammi un consiglio. Non lo so, Milan, vai benissimo, il lavoro è una bomba, il programma al mattino va benissimo. La vita è meravigliosa, panini, è quasi Natale. Ci sono dei grandi, però un po' è Natale. Niente, il clima non è che proprio, a me l'inverno un po' mi sta sulle balle, quindi non è che provo a aiuti tanto questa cosa. E che ne so, vediamoci Milan, vediamoci, dai, facciamo un incontro, e una bella cena e andiamo a vincere. Senti, lo porto non vedo molto altro. Lo porto a bere un tè. Okay, grazie, grazie. Lo porto Alessandro Milan a bere un tè. Grazie per lui, ci sentiamo domani. Ciao, ciao, ciao. Ale, vieni con me. Sì, una tisana più che un tè. Sono un po' depresso. Vieni con me. Ho giusto il tempo del GR. Andiamo, vieni. Occhio. Porto io. Io da tifoso milanista oramai lo stomaco me lo sono fottuto da un casino di tempo. Tutti convocati. Beh, che sia un Natale che sotto l'albero porti la svolta non solo economica e non solo a parole. Un Natale in cui stare attenti. Molto, ma molto attenti. Perché se c'è una cosa in cui siamo tutti convocati, è proprio Natale. Radio 24. La passione si sente anche a Natale. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caldaie Termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Rieccoci, altro che 800 24 0024, è il numero verde, un sacco di temi sul tappeto. Roma-Real Madrid, Juventus-Bayern Monaco, questa l'urna crudelissima del sorteggio di Champions. Fiorentina Tottenham, Galatasaray Lazio, Villarreal Napoli, così ha detto oggi non benissimo per le italiane. Franco, provincia di Trento, buongiorno. Salve Genta, salve, non so se parloci ancora perché adesso sono andato a lavorare. No, è andato a lavorare, parlo. 87 tiki tatra fa, avevo sentito che 87. Diceva che diceva Napoli. Ma anche meno, Anche no, meno. No, sì, scherzo. Rimane domenica strana, perché molto strana, rimane comunque la nostra favorita, Io non mi tiro indietro, sto anche con Pardo, poi il Napoli sta vivendo un momento di fatale flessione. Sì, non può continuare a correre come correva, nel senso, secondo me avrà un calo fisico, perché Napoli andava veramente a mille. Si cala un attimo insieme e diventa difficile. Ieri sera la Juve ha fatto una partita tosta, oggi c'è stata la bastonata del Bayern. Ma come diceva Agnelli, bisogna batterli tutti per arrivare in fondo, perciò per vincere. Questa è una banalità, è chiaro che qualche grande avversaria la devi incontrare, magari se riesci ad evitarla agli ottavi. Ma il cristallo è questo. Secondo me questo scudetto lo vincerà chi butta via meno punti con le piccole, perché il problema è che tutti quelli dietro hanno perso punti con le piccole, mentre invece l'Inter per adesso no. E allora lo vince l'Inter, perché secondo me l'Inter dei punti con le piccole ne butterà via pochissimi. No, lo so, però, capito, ma se lei dice lo vincerà, ed è condivisibile, chi butterà via meno punti con le piccole, io ho una candidata che è l'Inter, perché ha la faccia di una squadra che di punti per strada con questi ne lascia pochissimi. Sono ancora in attesa di verifica sui confronti diretti, che quest'anno sono tanti, Quest'anno la lotta è più grossa degli altri anni. Poi attenzione, perché la Juventus nel ritorno ha tutti i confronti diretti in casa, salvo la Fiorentina. Io da juventino spero in quello. Un'altra cosa, che questa invece esula, noi vi aspetto il 22 a Campiglio per la Coppa del Mondo. Cioè, non potete mancare. Assolutamente no, ma ci mancherebbe altro. Siete invitati formalmente. È in agenda. Perché un martedì, Franco, potreste anche farci un salto. Sì, poi bisogna trovare qualcuno che si sieda qui al mio posto, ma comunque non è un problema. Facciamo da là. L'ultima cosa che ti chiedo: trasferiamo tutta la baracca di Radio 24 a Campiglio per la Coppa del Mondo. Non sarebbe male. No, sarebbe bello, altro che bello. Organizziamo uno stand per dove trasmettere la diretta. Molto bene, presenti. La Juve c'ha due jolly, che Alessandro che gira la partita, perché ieri sera quando è entrato ha girato la partita. E non è la prima volta. E Sturaro che ha dato una bella differenza a centrocampo rispetto a Khedira, che mi sembra ancora molto indietro. Chiaramente infortunato, molti indietro. Franco, d'accordo su tutti e due i punti. Poi Sturaro ha dato equilibrio alla squadra. Che dirà, anche dal punto di vista dell'esperienza internazionale, è qualcosa di diverso. Però è un giocatore, come sappiamo, non affidabile in questo momento. È ancora lì? No, non c'è più. Volevo chiedergli una percentuale su Juventus Bayern Monaco. Sarà per la prossima. 800 24 00 24. Prima di Michelangelo da Rimini voglio farvi sentire una delle mie rubriche preferite, e cioè il podio delle dichiarazioni della domenica, a partire da Cuadrado. Ti chiedo invece di questo, quello che noi chiamiamo il gioco delle coppie, no? O giocano Lichtsteiner e Alexandro, o giocano Cuadrado ed Evra. Quando lo sapete voi, come vengono scelti, in base a cosa venite scelti tu o un'altra coppia? Mi dice coppia? Solo uno e lui indovina. Guarda, ferma il ministro. Lo chiediamo, fermi il ministro, lo chiediamo a lui. No, non lo so, penso che il mister valuterà, no? Valuterà quando deve giocare uno, e perché siamo tutti diversi, no? Ecco, in questo caso cosa voleva in particolare? Non lo so. Fino all'onestà, che ti devo dire, Quadrado, sei un grande. Sai che non gioca più per un po', cosa voleva in questo caso? Non lo so. Allora, secondo posto in classifica, Sarri. Forse tratti nel primo tempo contro una squadra chiusissima, e quindi non era facile dare ritmo all'azione. Nel momento in cui abbiamo alzato ritmi, un segnalino ci ha tenuto fermi per 4 minuti consecutivi, quindi era anche difficile dare ritmo. Nel secondo tempo abbiamo fatto buoni ritmi. Allora, primo del podio, Paolo Sosa allenerà un giorno la Juventus. Ha detto che in 5 anni vuole vincere la Champions. Ha degli obiettivi precisi in testa, ragazzo. Allenerà la Juventus. Io sono veramente molto contento dove sono, sono completamente focato 100% su questa maglia viola, che stiamo facendo benissimo, che ci stiamo divertendo tantissimo con il nostro gioco. Vabbè, questo era Paolo Sousa. Prima Sarri che se l'è presa, guarda lì, ci ha spezzato il ritmo perché avevamo buoni ritmi, eccetera, eccetera, eccetera. Rumore delle unghie sugli specchi. Però, tanto per gradire, Boris Sollazzo, buongiorno. Buongiorno. Le faccio sentire una cosa, professore. Sarri e Garcia, modi diversi di leggere Napoli-Roma di ieri sera. No, forse al pugilato l'avremmo vinto per getto della spugna, no? Ai punti. Perché la supremazia è stata talmente netta, che la partita finiva 7 palle gol a 0, 70% di predominio territoriale contro 30, quindi è stata una partita a senso unico, l'abbiamo fatta solo noi e siamo stati bravissimi a non farli ripartire, a non concedere niente a una squadra offensivamente fortissima come la Roma, che stasera ha fatto una prestazione difensiva superiore a quelle che fa solitamente. Ma abbiamo tirato nel secondo tempo almeno una volta di testa, non si può dire che non abbiamo tirato in testa, era anche possibile vincere, l'obiettivo era iniziare forte, pressare 5 minuti, 10 minuti e poi mettersi tutti indietro, organizzati bene, nel primo tempo non mi ricordo neanche una situazione pericolosa per l'avversario. Allora, questa volta devo dire sto con Garcia. Non sono d'accordo con Sarri sul fatto che ai punti il Napoli doveva vincere. Secondo me, nella filosofia, uso questo parolone, di questa partita, la Roma ha fatto meglio del Napoli, perché ti aspetti il Napoli che distrugge la Roma e che le toglie certezze e che magari la elimina in maniera più o meno definitiva dalla corsa a scudetto. Questo non è avvenuto. Ma non, io sono d'accordo con Sarri, ma non perché sia il mio, ero lì allo stadio e francamente se abbiamo esaltato l'Inter per una sconfitta, io mi sento di esaltare il Napoli per un pareggio, con una squadra che ha fatto una partita più chiusa di quella che hanno fatto Palermo e Udinese a Napoli. Ha fatto una grandissima partita difensiva, Garcia è venuto con la precisa volontà di fare uno 0-0 e credo che questo sia una pietra tombale sulle ambizioni della Roma, perché francamente se l'è giocata come se l'è giocata Gasperini, ma Gasperini è quattro ultimo in classifica. No, Boris, perché per una squadra come la Roma in questo momento venire a Napoli e riuscire comunque ad organizzare una partita difensiva, prettamente difensiva, e riuscire a portarla a casa, secondo me è un titolo di merito in un momento come questo. In un momento per me è un segnale della forza. Bisogna del essere Napoli. Bravi a fare una partita difensiva a Napoli. Per me è un segnale della forza del Napoli, perché nonostante questo pullman parcheggiato davanti alla porta di Szczęsny ha avuto tre clamorose palle gol che continuano ad assommarsi alle 10 di Genova, alle 6 di Bologna, e che sono un problema del Napoli, perché chiaramente quando non si trova Higuaín davanti alla porta qualche problema c'è e non ce lo nascondiamo. Dall'altra parte io trovo una squadra che ha toccato per 5 volte la palla nell'area del Napoli, che non si è mai fatta vedere, che ha fatto una partita per me, ripeto, avvilente. A me ha ricordato il Bayern Monaco-Roma, in cui la Roma va a difendere una sconfitta per evitare una goleada. Va benissimo così, ha avuto ragione Garcia, ma se il Kadri da mezzo metro la mette dentro al 92esimo, adesso parliamo di un Napoli che è riuscito anche a sfondare il fortino giallorosso. Però non credo proprio che sia una nota di merito per la Roma. Sarebbe stato avvilente perdere questa partita, Boris, non sono d'accordo con te su questo punto. La Roma rischiava tantissimo dal punto di vista non solo, non tanto della classifica, quanto dal punto di vista dell'autostima e della credibilità. Cioè, ieri sera poteva perdere in maniera netta con il Napoli, uscire dalla lotta a scudetto definitivamente, e magari oggi stavamo parlando di esoneri, non solo di sorteggi di Champions League sfigatissimi, ma di esoneri e di nuovi nomi sulla panchina della Roma. Quindi, secondo me, ieri la Roma ha giocato... Come? Credo sia solo fortuna, nel senso che... se la gioca pensando che davanti alla porta tre giocatori del Napoli sbagliano un gol fatto, sì, si è visto anche un po' di egoismo. Ma poi, per carità, è stato bravissimo a mettere Pjanic su Jorginho, è stato bravissimo a motivare un giocatore in crisi come Rudiger e a fargli tenere Higuaín. Però insomma, se il guardaline vede il fuorigioco giusto, anzi vede il non fuorigioco e poi il Mani, parliamo di altro. Se segna Hamsik, parliamo di altro. Voglio dire, non lo so, io sono soddisfatto, mi sembra che il Napoli continui a dimostrare una continuità di gioco. Certo, ieri meno esplosiva, perché è chiaro che se qualcuno viene a difendersi in 11 nella propria area è difficile farne 10 di occasioni di gol e ne fai solo 3 o 4. Dall'altra parte c'è una Roma che ha giocato come una provinciale, brava, perché contro l'Atalanta neanche quello aveva fatto, ma non mi sembra che abbia messo, diciamo, una lapide sulle proprie ambizioni, anche se non c'è il divario di punti. Se questa è la squadra, non so come faccia, mi sembra la falsariga della serie di Parigi dell'anno scorso, senza però, sì, però i giocatori che giocano attraverso le squadre che giocano attraverso dell'anno scorso. Non dimenticarti del momento complessivo della Roma, non dimenticarti di Roma bate Borisov, di quel passaggio del turno, dei fischi, dell'ambiente, di mille cose che hanno incrinato comunque la fiducia in Roma. Secondo me, torno a ripetere, per giocare una partita difensiva a Napoli devi crederci, e ieri i giocatori hanno dimostrato di crederci. Io voglio coinvolgere anche gli ascoltatori, 800 24 00 24, in questo discorso a tutto tondo ovviamente sul campionato. Michelangelo Rimini, buongiorno. Ai ai ai, Carlo, ai ai ai, ai, ai, ai, depression, ai, ai, chi sta audaci do antico Milan. Scusami la brasilianata, ma no, per offrire un punto di vista diverso al grande Lino Milan. Lui dice che ricomincia da Frosinone all'inizio, no? Senti, noi quando sono apparse le figurine sullo schermo e abbiamo visto nel 4-4-2 una figurina italiana e una olandese, il Montolivo, questo Montolivo, e il De Jong ieri, con tutto il rispetto, per carità di Dio, ma ci siamo detti, sai che un tempo l'italiano era un certo Ancelotti? Vabbè, ma non si può, Michelangelo, io ti capisco, tutta la mia solidarietà insieme al mio amico Milan, che mi è costato una tisana calmante, però non si può vivere con Ancelotti, Rijkaard, Gullit, Van Basten, il Milan di Sacchi, eccetera, eccetera. È un po' dura vivere anche in un passato più recente fatto di Shevchenko, di Kakà. Sono tempi diversi. Il problema è che non si vedono le linee di una ripresa e di una ricostruzione. Questo è il fatto, e anche qui il quadro è molto complesso e dentro ci stanno i problemi societari, dentro ci sta questo difficile passaggio di proprietà, i due amministratori delegati, un presidente che tutto sommato è sfiduciato, che ha voglia fino a un certo punto di tornare ad investire nel Milan. Il quadro è molto complesso e i ricordi sono soltanto, secondo me, una parte del quadro complessivo. A Boris Solazzi invece voglio chiedere del sorteggio Villarreal-Napoli. Sei soddisfatto di questo? Beh, di sicuro ci sono brutti ricordi, nel senso che perdemmo un sedicesimo con un gol di Hamsik che fece crollare la tribuna, e poi due errori di Campagnaro che portarono il Villarreal a rovesciare il risultato. Quinta in classifica il Real, il Villarreal ha un punto dalla zona Champions League, poteva andare meglio, forse poteva andare anche peggio. Credo che il Napoli che gioca quest'anno non abbia rivali insormontabili, in particolare in Europa League. Dal tono mi pare di capire che te ne frega pochino dell'Europa League. No, me ne frega parecchio, anche perché sono abbastanza parecchio convinto, come immaginavo, che insomma quello che ci possiamo giocare è molto di più nelle coppe. Insomma, sono molto più interessato a Napoli-Verona di mercoledì che ad Atalanta-Napoli, che insomma è una bestia nera non da poco per il Napoli. No, io sono invece un fan delle coppe, come sì. Ricorderai a Benitez, continuo a ringraziarlo per due coppe, perché comunque sono vittorie che aiutano. Se il Napoli in questo momento si ritrova in questa situazione, avendo perso a Bologna, anche per la disabitudine a vincere di alcuni giocatori. Questo è indubbio. Un'ultima cosa, ieri hai visto qualche segno di egoismo da parte delle punte del Napoli? Nel primo tempo sì, però c'era anche la frustrazione, c'era il grande errore di giocare soprattutto sulla sinistra, di puntare su Insigne anche inevitabilmente, visto che dall'altra parte c'era un Calleon non proprio in forma, Isai, e questo riduceva ancora di più gli spazi che già erano stati ridotti dalla Roma. Poi probabilmente Insigne voleva spaccare il mondo, perché come ha detto Sasi, Napoli-Roma è una partita che ormai è diventata un derby, certo, purtroppo. Però insomma mi ha molto più colpito, secondo me, Higuaín, che sottovalutava la coppia difensiva della Roma, come abbiamo pensato tutti, devo essere sincero. Però lì ha fatto, forse Garcia ha fatto il suo capolavoro, cioè sarà andato da, come faceva Boscov, sarà andato da Rudiger, ha detto tutti pensano che sia scarso e che lui ti mangerà, tu devi fare la partita migliore della vita, Boris, e l'ha fatta. Io non credo che lo vedremo più di fare una cosa del genere a Rudiger. Questo non lo so, ci sono pochi indizi sul punto. Grazie Boris, un abbraccio. A presto. Ti abbraccio, Boris Sollazzo. Michele, provincia di Belluno, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Buongiorno, buona trasmissione. Volevo parlare di Vina. Io probabilmente non ho sentito, mi sono collegato un quarto d'ora fa. Sì. E sono tifoso del Milan da 50 anni. E secondo me il problema, e cerco di essere sintetico, è risolvibile in due fatti. La proprietà che ha disfatto il Milan qualche anno fa. E i giocatori che, a parte qualche eccezione, sono mediocri, modesti, non possono competere con la Juventus, col Napoli, non hanno la forza di rapidità di passaggi. Montolivo è lento, per esempio, ed era un giocatore che valeva 5-6 anni fa, ma adesso per passare la palla ci mette 10-15 secondi, i difensori si sono già messi in posizione, già marcano. Michele, c'è un problema di personalità. C'è un problema di personalità nel Milan. E io continuo a domandarmi perché. Allora, ci sono due punti. Il primo è che comunque Mihajlovic è forse l'unico aspetto positivo in questa stagione fin qui. Mihajlovic ha messo in campo una squadra spesso molto giovane. Non sto a ricordare tutti quelli da Romagnoli a De Sciglio, che pure è molto giovane, anche se sta vivendo una lunga fase di regressione, Donnarumma, lo stesso Calabria che abbiamo visto più volte. Insomma, il Milan è una squadra piuttosto giovane. Dall'altro lato non riesco a capire perché Mihajlovic ha scientemente rinunciato ai giocatori di personalità, quelli di garra, che certo non sono fenomeni, certo non sono più nel fiore della carriera, però io in questo momento giocatori come Mexès e De Jong tutto sommato li farei giocare con tutti i loro limiti. Tommaso Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Tommaso, tifoso della Roma, e volevo semplicemente dire una cosa, che ieri la partita poteva finire 80-0 per il Napoli, oppure poteva esserci la rivalsa della Roma e quindi finire 80-0 per la Roma. Non so poi se le Moviola hanno dimostrato che il gol di De Rossi fosse valido o meno, ma non credo che cambiava tutto o cambiava tanto. Penso una cosa, che come diceva Ruben, non ricordo il cognome, Boris, scusa, non ricordo il cognome, con i se ci fa poco e niente, perché se entrava, se non entrava, se avessero convalidato il gol, la partita cambiava. Però non lo so, la partita è finita 0-0. Risultato negativo per il Napoli? Non lo so quanto, perché ma secondo me, secondo me sì, cioè, ripeto quello che ho detto prima, ieri il Napoli aveva un'occasione importante per riannodare certi fili, per far fuori definitivamente la Roma dalla rotta scudetto, per darle un colpo di grazia che credo sarebbe stato letale, magari anche per Garcia, e ovviamente stiamo parlando in termini sportivi. Quanto al gol di De Rossi non si è ancora capito, ma non mi sembra questo il punto. Voglio sottolineare invece come ieri la Roma abbia giocato una partita dal punto di vista difensivo che non puoi giocare contro questo Napoli se non ci credi, e questo secondo me è un dato da prendere in considerazione, perché al di là delle occasioni avute dal Napoli, al di là del fad, del pullman parcheggiato davanti alla porta, devi essere bravo, devi crederci per riuscire a giocare in quella maniera contro una squadra come il Napoli, che pure è stanca, ma che è una quanto c'è di meglio, credo, dal punto di vista del gioco offensivo nel nostro campionato. Marco, provincia di Parma, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Sempre a proposito del Milan, il Milan l'unico problema che ha è che sono Barbara Berlusconi e Adriano Galliani, non possono convivere insieme, insomma. Da quando è arrivata Barbara al Milan e si è sciolto. Questo, Marco, questo è uno degli aspetti del problema, ripeto, è uno degli aspetti del quadro, e nel quadro ci stanno molte cose. Ci sta l'allontanamento dal punto di vista affettivo ed economico del proprietario, ci sta una grande confusione societaria, ci sta un cambio di proprietà per il quale stiamo ancora aspettando notizie, ci sta una squadra che certamente non è competitiva per alcunché, insomma ci stanno diverse cose in questo quadro, e questo è certamente uno degli aspetti, quello che lei sottolinea. Ci fermiamo qui, ragazzi, si torna domani. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchiorre in redazione, ciao. Arrivederci, ragazzi, ciao.